far votare 670 milioni di persone non è tanto facile, nemmeno per un paese abituato ai grandi numeri come l'immensa Unione Indiana, secondo solo alla Cina in fatto di popolazione. Le date della tornata elettorale, iniziata oggi, che dovrà eleggere la 14ª Camera Bassa, si svolgono così nell'arco di 2 mesi. Iniziate per i primi 141 seggi della Lok Sabha martedì, il 26 aprile si voterà per altri 137, il 5 maggio per 83, infine il 10 per le rimanenti 182 poltrone. E tra le novità c'è il voto digitale. Gli occhi sono puntati su alcuni colossi, come lo stato dell'Uttar Pradesh, che da solo consegna oltre 80 seggi al Parlamento, e dove corrono i due candidati principali, l'attuale premier Atal Behari Vajpayee, leader del Bharatiya Janata Party, il BJP, e la leader del partito del congresso, Sonia Gandhi, dal cognome indianissimo ma dai natali italiani. Non sono gli unici sulla scena dell'Uttar Pradesh. Appare quest'anno per la prima volta anche Rahul Gandhi, 33 anni, figlio di Sonia, ma soprattutto di Rajiv, a sua volta figlio di Indira, a sua volta figlio di Jawaharlal Nehru, il primo premier dell'India indipendente, la dinastia dei Nehru Gandhi. La rivista indiana Outlook ha pubblicato l'ultimo sondaggio. L'NDA, l'Alleanza Democratica Nazionale guidata dal BJP, dovrebbe ottenere il 40% dei voti e 276 seggi alla Camera Bassa. L'Alleanza del Congresso dovrebbe ottenere il 37,6% dei voti e 166 seggi. L'NDA perderebbe 4 seggi, la coalizione del Congresso ne guadagnerebbe 14. La scommessa elettorale si gioca tutta su uno slogan che per il BJP è il tentativo di cambiar pelle, passar cioè a simbolo del progresso unitario del paese, anziché il rappresentante dell'indianità pura e dura e di un nazionalismo integralista e ideologico che ha spesso fomentato disordini, stragi, pogrom anti-islamici. La parola d'ordine è progresso, sviluppo economico, indici di borsa, ricchezza per le sempre più affluenti upper e middle class, Shining India, come recita la controversa campagna elettorale del partito di governo, accusato dall'opposizione di averla finanziata con denaro pubblico. Ma la corsa vera, dicono gli osservatori, è quella per capitalizzare il voto di quei 600 milioni di indiani che non fanno parte né della middle né della upper class, ai quali, al momento, né l'ultramodernismo del BJP né le nostalgie del Congresso sembrano ancora aver dato la risposta che cercano. Emanuele Giordana, lettera 22 a Misnet.